pensieri, quelli che insistenti mi accompagnano. Sono vivi, persistenti, sono veri, quelli che mi danno la semplicità. Quelli che adesso io faccio per te.